البلاد طردوا الأجداد صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو فلسطين عربية حرة غبية القدس إلنا يا أحرار قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو قالوا يا سلام آه يا سلام لا صفقة بدنا ولا استسلام قاومنا دفعنا حتى نرجعها صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو قالوا القانون دولي Buongiorno Palestina, 103esima trasmissione su Radio Wombat. Riprendiamo oggi le trasmissioni quindicinali riferendovi di un evento su cui da mesi stanno lavorando le associazioni Assopace Palestina, Amicizia Italo-Palestinese, Arci, Cospe, Ampi, in accordo con l'associazione Giuristi Democratici. Si tratta della realizzazione di un convegno da tenersi a Firenze dal titolo La difesa dei diritti umani in Palestina. L'iniziativa ha ricevuto il consenso e il patrocinio della Regione Toscana e la partecipazione di assessorati alla cooperazione internazionale e la presidenza del Consiglio regionale toscano, a cui si è aggiunta anche la presidenza del Consiglio comunale di Firenze. All'evento avrebbero partecipato da Israele e dalla Palestina anche i rappresentanti di alcune associazioni per i diritti umani. Ma a distanza di poco più di 2 settimane dalla data del convegno stabilita fin da giugno per il 15 settembre, la Regione ha comunicato l'impossibilità di realizzare questo evento in questa data, in quanto attinente ad aspetti elettorali relativi alla campagna elettorale in atto. Quello che ci chiediamo oggi è in che misura la campagna elettorale abbia a che fare con il convegno, o se in questo slittamento di data vi siano state, come già successo in passato, interferenze dell'ambasciata israeliana. Su questi temi abbiamo intervistato alcune delle organizzazioni promotrici di cui vi faremo ascoltare i pareri espressi. Nella seconda parte della trasmissione vi parleremo di Mumia Abu Jamal. Ma chi è Mumia Abu Jamal? Già membro delle Pantere Nere, Mumia è il prigioniero politico più famoso degli Stati Uniti, condannato per un delitto che non ha commesso. Ve ne parleremo in particolare per un messaggio che Mumia ha voluto rivolgere dal carcere in cui è rinchiuso da 39 anni, un messaggio rivolto ai palestinesi. Tutto questo dopo la consueta stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale. Buongiorno Palestina, sono Angela. Iniziamo la rassegna stampa con un articolo inerente il tema di oggi, e cioè di come la politica italiana venga influenzata da Israele. Nell'articolo dal titolo «Chi interferisce concretamente sulle elezioni italiane? Guai a criticare Israele?», pubblicato da Contropiano e rilanciato dal sito di Amicizia Italo-Palestinese, l'autore Sergio Cararo ci descrive il clima di subalternità della campagna elettorale italiana agli interessi israeliani attraverso giornalisti e politici vicini allo Stato sionista. La vicenda del capolista del PD in Basilicata, Raffaele La Regina, costretto a rinunciare alla candidatura per aver pubblicato 2 anni fa un post su Facebook in cui criticava la politica israeliana, e gli ulteriori attacchi all'altra candidata, capolista del PD a Treviso, Rachele Scarpa, per avere anche lei, attraverso Facebook, definito lo Stato di Israele un regime di apartheid, ha scatenato attacchi da esponenti politici come Salvini, Orsini di Forza Italia, Matteo Renzi, definendo antisemiti, come al solito purtroppo, questi giovani politici per aver osato criticare la politica israeliana. Ovviamente le dichiarazioni di condanna nei confronti di questi candidati e del PD sono state sostenute a gran voce dai giornali come Repubblica e Il Foglio, che non hanno perso occasione di ribadire la legittimità dello Stato di Israele. L'autore conclude ricordando che in questa campagna elettorale l'unica forza politica che ha inserito nel suo programma il riconoscimento all'autodeterminazione dei palestinesi è Unione Popolare. Ma passiamo ad un'altra campagna elettorale, quella israeliana. Nell'articolo La destra vola nei sondaggi e Ben Gvir è la sua stella, pubblicato dal Manifesto, Michele Giorgio fa il punto della situazione in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 1° novembre in Israele. Nonostante Netanyahu, capo del Likud, avesse dichiarato nel febbraio 2021 che avrebbe potuto accogliere nella sua maggioranza il partito di estrema destra Otzmar Yehudit, potere ebraico, riteneva il suo leader Ben Gvir non idoneo alla carica di ministro. Adesso però Netanyahu sembra ricredersi. Pare infatti che Ben Gvir stia per stringere un'alleanza elettorale con Sionismo Religioso, altro partito ultra-ortodosso, il che porterebbe la coalizione di destra a raggiungere la maggioranza alla Knesset. Ricordiamo che Ben Gvir è un fervente sostenitore del rabbino razzista Meir Kahane, che sosteneva la deportazione di tutti i palestinesi. Per l'analista Warshawski, le prossime elezioni rappresentano lo sdoganamento definitivo della destra estrema. Molto interessante è l'intervista che Patrizia Cecconi ha fatto all'avvocato Ugo Giannangeli, che trovate sull'Antidiplomatico nell'articolo dal titolo Sanzioni internazionali e il caso Israele. L'avvocato Giannangeli spiega come Israele si confermi uno Stato al di sopra del diritto internazionale. Con la sentenza del 5 luglio scorso, infatti, la Corte Suprema israeliana ha stabilito che la vittima, se residente a Gaza, non ha diritto ad alcun risarcimento. Tutto ciò è supportato da una legge del 1952 reintrodotta nel 2012 che afferma che i residenti in un territorio dichiarato dal governo israeliano territorio nemico non hanno diritto ad alcun risarcimento e Gaza è stata dichiarata territorio nemico. La Corte ha detto che la legge non è contraria al diritto internazionale, ma se lo fosse, la Knesset, cioè il Parlamento, ha il potere di annullare il diritto internazionale. E questo la dice lunga sul doppio standard che l'Occidente adotta nei confronti di Israele, che a differenza di altri paesi, come ad esempio l'Ucraina, dove è già operativa una squadra investigativa della Corte Penale Internazionale per i crimini israeliani, invece, dopo 74 anni, ancora non è stato attivato nessun procedimento penale. Rimaniamo sul conflitto in Ucraina e di come questo rappresenti una manna per certi paesi, come appunto Israele. Nell'articolo Boom delle esportazioni di gas israeliano verso l'Europa sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina, pubblicato da Invicta Palestina, si evidenzia come Israele faccia grandi affari da quando è cominciato il conflitto in Ucraina. Nel 2022 Israele ha visto aumentare del 50% le royalties dall'esportazione di gas. Ha inoltre aumentato la produzione del gas del 20% per soddisfare la crescente domanda in Europa e del 35% verso l'Egitto e Giordania. L'aumento della produzione avviene essenzialmente dai giacimenti di Tamar e Leviathan nel Mediterraneo orientale. Queste nuove forniture verso l'Egitto e verso l'Europa sono il frutto di accordi firmati dall'Unione Europea e da Israele nel giugno scorso, in merito ai quali la deputata Grace O'Sullivan del Partito dei Verdi irlandese ha sottolineato l'ipocrisia della von der Leyen che da un lato condanna gli insediamenti illegali e l'uccisione di Shirin Abu Akleh e dall'altra non perde tempo andando a Tel Aviv a firmare questi accordi. Concludiamo questa rassegna stampa con la notizia che tanto aspettavamo. Khalil Awaudeh sospende lo sciopero della fame e sarà liberato il 2 ottobre. Nell'articolo pubblicato da Pagine Esteri, l'autrice Valeria Cagnazzo ci ricorda che Khalil Awaudeh, in sciopero della fame da 172 giorni per protestare contro la sua detenzione amministrativa, la cui liberazione rientra negli accordi di cessate il fuoco tra Israele e la Jihad islamica, sarà rilasciato appunto il 2 ottobre. Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Khalil, padre di quattro figlie, che allo stremo delle forze, in un videomessaggio registrato in carcere e trasmesso ai media dalla famiglia, ha dichiarato: "Il mio corpo, sul quale rimangono solo ossa e pelle, non riflette la debolezza e la nudità del popolo palestinese, ma rispecchia piuttosto il volto reale dell'occupazione." Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio. صهرت كل الأسماء في دمي عصر أورشليم قبلة أورشليم أصبحت كوكبا تائها في كون بعيد في عصر غريب صمت بأي سؤال جئت يا صمت إلي وأنا هايب في بحر صمت بأي ظنون عدت يا صمت إلي وأنا هايب Prima di entrare nel vivo della prima parte della trasmissione, vi diamo lettura di un recentissimo e importante documento inviato al Ministro degli Esteri, onorevole Di Maio, per l'occasione del prossimo Consiglio di Associazione Unione Europea-Israele, che si dovrà tenere prima delle elezioni del 1 novembre 2022 dello Stato ebraico. Il documento è firmato da Alessandra Mecozzi per Cultura e Libertà, Luisa Morgantini per Assopace Palestina e Paola Manduca per New Weapons Research Group. All'attenzione del Ministro degli Esteri, onorevole Luigi Di Maio. Oggetto: riunione del Consiglio di Associazione Unione Europea-Israele e gli attacchi di Israele contro organizzazioni non governative palestinesi per i diritti umani. Datato Roma 30 agosto 2022. Gentile Ministro Di Maio, il 18 agosto le forze di occupazione israeliane hanno invaso gli uffici di 7 delle più importanti organizzazioni palestinesi per i diritti umani. Organizzazioni riconosciute a livello internazionale, Adamer, Associazione di Sostegno ai Prigionieri, Alak, Associazione per i Diritti Umani, Bizan, Centro di Ricerca e Sviluppo per la Comunità Palestinese Emarginate, Defense Children International Palestina, Unione dei Comitati dei Lavoratori Agricoli, Unione dei Comitati delle Donne Palestinesi e Comitati degli Operatori Sanitari. Le porte degli uffici sono state sfondate, le attrezzature sequestrate e sono stati emessi ordini militari dichiarati la chiusura delle ONG in nome della sicurezza nella regione e della lotta contro un'infrastruttura del terrorismo. Dopo i recenti attacchi alla striscia di Gaza, dopo le micidiali incursioni dell'esercito di occupazione nelle città palestinesi e le ondate di arresti in Cisgiordania e Gerusalemme, le autorità israeliane stanno ancora una volta attaccando le organizzazioni che tutelano i diritti della società civile palestinese nel suo insieme. Israele ha attaccato e chiuso gli uffici delle ONG esattamente un mese dopo che i ministri dell'Unione Europea avevano dato il via libera alla riunione del Consiglio di Associazione Unione Europea-Israele. È chiaro che Israele ha attaccato queste ONG sapendo che era stato avviato il processo di preparazione del Consiglio di Associazione. La chiusura delle ONG per i diritti umani, segno distintivo dei regimi autoritari, è un affronto ai principi fondamentali dell'Unione Europea. Tenere la riunione del Consiglio di Associazione Unione Europea-Israele e parlare di valori condivisi mentre Israele continua a liquidare i gruppi finanziati dall'Unione Europea è uno schiaffo all'Unione Europea. Tutto questo sta accadendo mentre si svolge un processo di annessione de facto con lo spostamento dei palestinesi in varie località della Cisgiordania, come Massa Ferijatta, lo smantellamento della soluzione dei due stati, l'assassinio di palestinesi, il radicamento dell'apartheid e la violazione del diritto internazionale e dei diritti umani. Nella dichiarazione del 22 agosto, il Mr. Joseph Borrell, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha affermato che le azioni di Israele sono inaccettabili. Le organizzazioni per i diritti palestinesi, i loro leader, attivisti e uffici devono essere protetti in modo che possano svolgere la loro missione, che è assolutamente essenziale per la difesa del popolo palestinese e il progresso della causa dei diritti nei forum internazionali. In una grande dimostrazione di solidarietà, i palestinesi hanno reclamato la riapertura degli uffici delle ONG, organizzazioni non governative, chiuse dall'occupazione. Ma le forze di occupazione potrebbero tornare in qualsiasi momento. Non è più tempo di dichiarazioni tiepide. L'Unione Europea e i suoi Stati membri devono condannare urgentemente, nei termini più chiari, gli abusi israeliani contro le ONG palestinesi e chiedere l'immediata cancellazione dei decreti governativi e degli ordini militari che hanno preso di mira questi gruppi dall'ottobre del 2021. È responsabilità dell'Unione Europea adottare tutte le misure di ritorsione necessarie contro il governo israeliano affinché metta fine a una politica degna degli stati più totalitari. Il Coordinamento Europeo per la Palestina, di cui facciamo parte, ha già inviato una lettera analoga come questa a Joseph Borrell, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, invitandolo a promuovere un dibattito tra gli Stati membri per l'annullamento della prossima riunione dell'Associazione del Consiglio Unione Europea-Israele. Chiediamo a lei, onorevole Ministro, di opporsi alla riunione prossima del Consiglio di Associazione Unione Europea-Israele. La ringraziamo per l'attenzione e inviamo i più cordiali saluti. Alessandra Mecozzi per Cultura e Libertà, Luisa Morgantini per Associazione Assopace Palestina, Paola Manduca per New Weapons Research Group. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna Vi parliamo ora del convegno sui diritti umani in Palestina, convegno concordato per il 15 settembre e organizzato a seguito di mesi e mesi di lavoro. Il suo rinvio a soli 15 giorni dalla data di svolgimento, è rimandato per una prossima data dopo il 25 di settembre, sempre da tenersi in una sede regionale, ha destato delusione e perplessità. Su questa vicenda abbiamo richiesto il parere di alcune delle associazioni organizzatrici e promotrici del convegno che si sono volute esprimere. Ecco cosa ci ha detto Manfredi Losauro dell'ARCI. Come ARCI di Firenze abbiamo appena appreso la notizia, la comunicazione che l'iniziativa che insieme a tante altre associazioni stavamo organizzando per il 15 di settembre nell'auditorium del Consiglio regionale della Toscana dal titolo La difesa dei diritti umani in Palestina è stata rinviata a destinarsi, rinviata a una data posteriore al 25 settembre, in quanto questo convegno avrebbe trattato di argomenti attinenti alla campagna elettorale. Rimaniamo un po' sorpresi dalla tempistica, riteniamo che poteva essere fatta prima questa comunicazione, ma riteniamo altresì che sia fondamentale, che sia importante mantenere l'impegno di fare questo convegno. Se non è possibile farlo il 15 settembre, lo faremo dopo il 25 settembre, ma è veramente importante mantenere l'impegno di svolgere l'iniziativa con il coinvolgimento delle istituzioni locali. All'iniziativa infatti parteciperà l'assessore regionale della cooperazione internazionale della Regione Toscana, Serena Spinelli, ci sarà un saluto del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, parteciperà anche Luca Milani del Consiglio Comunale di Firenze e credo che sia, appunto, crediamo che sia molto importante questa loro partecipazione perché si ritorni a parlare di Palestina. In realtà la Regione aveva già fatto un convegno molto interessante su questa tematica, che però è sempre più trascurata da altre istituzioni, dal sistema anche di informazione del nostro paese. Infatti riteniamo molto importante mantenere alta l'attenzione sulla questione israelo-palestinese. Come abbiamo visto nelle scorse settimane, l'occupazione continua dei territori palestinesi da parte delle forze israeliane continua, si fa sempre più pesante e strutturale. Purtroppo i nostri media ne parlano soltanto quando ci sono bombardamenti o situazioni eclatanti, ma in realtà quotidianamente ci sono scontri e il popolo palestinese subisce violazioni ai propri diritti umani e umanitari. Le vessazioni di questo popolo sono continue e proprio in questo ambito riteniamo che la motivazione per cui è stata rinviata l'iniziativa sarebbe quasi da auspicarsela, ovvero che la questione israelo-palestinese tornasse finalmente a essere argomento di campagna elettorale, cosa che purtroppo non vediamo essere. È da diversi anni, per non dire qualche decennio, che ormai quasi tutte le forze politiche trascurano questa questione, importantissima ovviamente a livello mondiale, e hanno anche trascurato quelle tradizioni, quel storico sostegno che buona parte della politica italiana aveva verso la causa palestinese, anzi a volte anche lasciando intendere degli scavallamenti di fronte che preoccupano molto. Noi crediamo che la sensibilizzazione sulla questione palestinese sia molto importante, noi crediamo che esista un occupato e un occupante, noi crediamo che sia corretto, che sia giusto sostenere il popolo palestinese nella rivendicazione della propria autodeterminazione e sostenere anche quella parte di popolazione israeliana, come ad esempio B'Tselem, che avrebbe partecipato all'iniziativa e che speriamo di poter confermare nella nuova data, possano continuare appunto nella loro lotta a fianco della popolazione palestinese, per appunto la rivendicazione dei diritti palestinesi. Per questo il nostro impegno massimo sarà quello di riconfermare l'iniziativa in una data da definire, cercando di mantenere il coinvolgimento di tutti gli attori in campo, sia istituzionali sia delle organizzazioni, per appunto avere la massima diffusione dell'iniziativa e coinvolgimento migliore delle nostre istituzioni, e continuare a parlare appunto della questione palestinese, perché non venga dimenticato questo popolo che da anni ormai lotta per la propria autodeterminazione. Ecco cosa ci ha detto Piero dell'associazione Assopace Palestina. Ciao a tutti e tutte, sono Piero di Assopace Palestina e sono fra gli organizzatori del convegno sui diritti del popolo palestinese che si è organizzato per il 15 settembre. Devo purtroppo comunicare che il convegno non si potrà tenere il 15 settembre perché il 29, cioè ieri, è arrivato una mail da parte del Consiglio regionale così scritta, che dopo opportune valutazioni tecniche, sentito il capo di gabinetto, è scaturita la determinazione di non procedere con l'evento, in quanto il tema da trattare è attinente agli aspetti elettorali, e spostare l'evento ad altra data. Ecco, devo registrare il fatto che, prima di tutto, non c'entra niente che il tema sia attinente agli aspetti elettorali, in quanto fra i nostri relatori invitati al convegno non c'è nessun personaggio politico, quindi non si capisce cosa c'entri questo collegamento con gli aspetti elettorali. L'altra cosa da dire è che le due date erano da tempo fissate, sia il 15 che il 25, per quanto riguarda appunto le elezioni, e nessuno aveva mai detto niente. Ora, pensar male si fa peccato, però qualche volta ci si azzecca. Non vorrei che ci fosse lo zampino di qualcuno che non ha molto piacere che si parli dell'argomento. Però, visto che hanno proposto di farla dopo il 25, tutte le organizzazioni sono d'accordo di spostare ad altra data l'evento in questione. Vi terremo aggiornati, vi faremo sapere quando questo evento si potrà finalmente tenere. Grazie, arrivederci, a presto. Ecco cosa ha detto Vania Bagni dell'AMPI. Il nostro convegno, al quale stiamo lavorando da diversi mesi insieme a importanti associazioni del territorio toscano ma anche italiano, dal titolo La difesa dei diritti umani in Palestina, programmato per il 15 settembre nell'auditorium del Consiglio regionale della Toscana, dobbiamo rinviarlo ad altra data perché per un'opportunità legata al tema della campagna elettorale. Ora ovviamente a noi questa cosa dispiace, però siamo fermamente convinti nel riprogrammarlo a una data diversa, non appena tutti gli interventi potranno essere confermati, perché noi ci teniamo tantissimo a portare sul nostro territorio, nella nostra città, queste testimonianze, queste esperienze, e soprattutto ci interessa e siamo convinti della necessità di affrontare nella sua articolazione il tema della difesa dei diritti umani in Palestina. Quindi non andrà perso niente del nostro lavoro, è soltanto dobbiamo soltanto aspettare il momento in cui potremo essere tutti quanti in grado di poter intervenire. Ecco cosa ci ha detto Barbara di Amicizia Italo-Palestinese. Buonasera, sono Barbara, presidente dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese di Firenze. E ho trovato singolare la motivazione per cui è stato chiesto di posticipare il convegno, perché il titolo del convegno è La difesa dei diritti umani in Palestina, trattato con la presenza di giuristi e esperti di diritto internazionale, e quindi faccio fatica a vedere come questo cioè quello della difesa dei diritti umani in Palestina, sia un argomento che può far parte della campagna elettorale. Sarebbe bello che nella nostra campagna elettorale per le prossime politiche in Italia si parlasse anche di difesa dei diritti umani, di come difendere i diritti umani in Palestina. Ma non mi sembra proprio che sia all'ordine del giorno, né che sia una tematica a cui sono particolarmente interessati in linea di massima i candidati alle prossime elezioni. E quindi, ripeto, faccio veramente fatica a capire come si possa utilizzare come motivazione per chiedere di spostare il convegno o come comunque possa violare il regolamento regionale sulla par condicio durante i periodi di campagna elettorale. Un altro parere che abbiamo voluto sentire è anche quello di Alessandra Mecozzi, del sito Associazione Cultura e Libertà. Ecco cosa ci ha detto Alessandra. In Italia di Palestina, Israele si parla poco e male. Adesso sembra che le elezioni siano l'occasione per un silenzio totale. Ma in che modo un convegno promosso tra gli altri dall'ANPI, dall'ARCI, dai giuristi democratici sulla difesa dei diritti dei palestinesi per il 15 settembre, anche con la partecipazione di B'Tselem, Organizzazione Israeliana per i Diritti Umani, è attinente alla scadenza elettorale? Non è dato saperlo. Quello che si sa è che la regione toscana, che avrebbe patrocinato il convegno, ha comunicato agli organizzatori che il convegno non sa da fare per, e cito, motivi inerenti alla disciplina della par condicio vigente in ordine allo svolgimento dell'evento in oggetto e considerato che il convegno tratta un argomento che è attinente agli aspetti elettorali. Sinceramente non è neanche tanto sorprendente, dato che nei giorni scorsi due giovani candidati del PD in Basilicata e in Veneto sono stati sostituiti, dopo un pesante intervento della comunità ebraica, per qualche frase critica o ironica sulla politica di Israele. No, non sono sorpresa dalla decisione della regione toscana, ma sono indignata. In che paese viviamo? In che Europa viviamo? Sono gli stessi che hanno invocato a gran voce il diritto internazionale e messo in atto sanzioni sulla Russia per l'aggressione all'Ucraina? Negli ultimi giorni Israele si prepara alle sue elezioni del 1 novembre, le quinte in 4 anni, collezionando decine di attacchi ai diritti umani e di violazioni del diritto internazionale. Dal bombardamento cosiddetto preventivo su Gaza all'espulsione di famiglie palestinesi da Silwan, vicino Gerusalemme, da Masafer Yatta a sud di Hebron, a una nuova violenta incursione nelle sedi di 7 organizzazioni non governative palestinesi per i diritti umani. Condannare questi atti di inciviltà, oltre che di illegalità, sarebbe un dovere, anche per il silenzioso PD, anche per il governo. Invece si è sentito il proclama di Salvini che, se vince la destra, riconoscerà Gerusalemme capitale di Israele, allineandosi così agli Stati Uniti. Allora, che ognuno voti come vuole, ma tutti abbiamo un dovere civile e morale di non voltare la testa dall'altra parte di fronte ai crimini di Israele. وعينيهن الحزينة من توديني بغربة العذاب كان في أرض وكان في إيدين عم بتعمر عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح وصار في بيوت وصار في شبابيك عم بتزهر صار في ولاد وبإيديهن في كتاب وبلايل كل ولاد سال الحقد بفيت البيوت والإيدين السودا خلعت البواب وصارت البيوت بلا أصحاب Welcome to the oppressed. Dear friends, I greet you all at the People's Forum in New York City. Tahiyyat rasmiya, kasalhali to our Palestinian brothers and sisters there. As we reason and reflect on the plight of Palestine, let us not forget the recent passing of the late and beloved Archbishop Desmond Tutu, who is remembered today for his fierce critique of the oppression of Palestinians, which he compared to the generations of sufferers in his native South Africa under the bitter system known as apartheid. It is fitting here to recall the late Archbishop and to note the recent observations. Chi parla? È Mumia Abu Jamal. È il prigioniero politico più famoso degli Stati Uniti, membro delle Pantere Nere, arrestato nel 1981 con l'accusa di omicidio di un poliziotto di nome Faulkner. Venne condannato a morte nel 1982 da una giuria tutta di bianchi di Filadelfia. Fino al 2008, nel braccio della morte, gravemente malato di diabete, è stato operato al cuore. La sua condanna, dopo proteste mondiali per decenni, venne mutata in ergastolo. Nel giugno del 1999, un sicario della mafia, Arnold Beverly, confessò a uno degli avvocati di Mumia di aver ucciso il poliziotto Faulkner, ma poi si decise di non usare tale confessione per sostenere il suo appello nel 1999, perché nessuno dei testimoni oculari aveva visto Beverly sulla scena del delitto. E nonostante una dichiarazione giurata del sicario, si ritenne che non sarebbe stato ritenuto credibile in tribunale. Nonostante la sua situazione disperata, Mumia è attivo politicamente e, per esempio, dalla Prison Radio riesce a rivolgersi al suo pubblico. Come Angela Davis è attivo per i popoli oppressi e particolarmente per i palestinesi. Ecco cosa dice nel suo contributo rivolgendosi al People's Forum di New York. Mentre riflettiamo e discutiamo insieme sulla situazione della Palestina al People's Forum di New York, non dimentichiamo che anche l'amatissimo arcivescovo Desmond Tutu, recentemente scomparso, venne premiato per le sue aspre critiche all'oppressione dei palestinesi. Egli paragonò la loro situazione a quella di generazioni di sofferenti nel suo paese natale, il Sudafrica, sotto l'amaro sistema dell'apartheid. È quindi opportuno a questo punto ricordare l'opera dell'arcivescovo Tutu e in questo contesto fare riferimento alle recenti osservazioni di Achille Mbembe, uno studioso africano francofono. Nel suo libro Politique de l'intimité, l'autore esamina il fenomeno dell'inimicizia che riemerge costantemente nell'era della globalizzazione. Mbembe prende in considerazione le intuizioni psichiatriche e politiche di Frantz Fanon e mostra come, a seguito dei conflitti legati alla decolonizzazione del XX secolo, la guerra sotto forma di conquista e occupazione sia diventata una caratteristica del nostro tempo. Dopo un breve intervallo, il confronto Palestina-Sudafrica. Dice ancora Mumia. Nella sua opera, l'autore Membe sottolinea anche alcuni aspetti notevoli per quanto riguarda la Palestina. Membe descrive comunque dove ovunque la costruzione di muri di cemento, recinzioni metalliche e altre barriere di sicurezza siano in pieno svolgimento. Oltre ai muri si stanno costruendo altre strutture di sicurezza come punti di posti di blocco, recinti, torri di guardia, trincee e ogni tipo di demarcazione. In molti casi questi non hanno altra funzione che quella di rafforzare il recinto di intere comunità, senza che i costruttori di muri e recinzioni riescano poi effettivamente a tenere fuori coloro che sono visti come una presunta minaccia. Questo è anche il caso, dice Membe, di tutte le località palestinesi, le quali sono letteralmente circondate e controllate dalle aree di insediamento israeliane. Il professor Membe confronta questo sistema di oppressione con il sistema dell'apartheid in Sudafrica e scopre questo, che le pratiche in Palestina gli ricordano il vituperato modello dell'apartheid con le sue patrie bantù, come enorme serbatoio di manodopera a basso costo, le sue zone per soli bianchi, con corrispondenti giurisdizioni diverse, e la sua violenza arbitraria. Tuttavia, la metafora dell'apartheid non rende giustizia al carattere specifico del progetto israeliano di segregazione etnica, spiega Membe. Questo progetto è più complesso, più pervasivo, e psicologicamente e storicamente più profondo del progetto calvinista attuato tra gli anni 40 e gli anni 80 in Sudafrica. So many years of catastrophe, more than 6 million refugees, it could be you and your family, forced from your home and your history. We are the people and this is our time. Stand up, sing out for Palestine. No matter your faith or community, this is a crime against humanity. Gaza turned into a prison camp. Apartheid war divides the West Bank. We are the people and this is our time. Stand up, sing out for Palestine. We'll break down the wall. Freedom for Palestine. Demand justice for all. Freedom for Palestine. Enough illegal occupation. Violence and racial segregation. All religious communities unite. Freedom is a human right. We are the people and this is our time. Stand up, sing out for Palestine. We'll break down the wall. Freedom for Palestine. Demand justice for all. Freedom for Palestine. You're deadlocked by doctrine, locked like a box you're locked in. Classroom bombs are dropped in and the pain is locked in. Shame on this brave new world you're lost in. And the lies is costing like a toxin. A penetration of hate, generations later still boxed in. Children dead cause we're led by the bigoted. Small graves filled instead and I'm sick of it. We are the people and this is our time. Stand up, sing out for Palestine. We'll break down the wall. Freedom for Palestine. Demand justice. Per la consueta rassegna musicale, nel corso di questa trasmissione avete ascoltato nella prima parte Radio Dervish, Ainaki, I tuoi occhi. A seguire avete ascoltato Feroz in Al-Quds Al-Atika, Al-Qud l'elegante, e poi Roger Water in Madar. Nella seconda parte della trasmissione Boubacar Traoré in Hona, e per finire Freedom for Palestine. Libertà per la Palestina è una canzone di One World, collettivo di musicisti, artisti, gruppi di campagna e enti di beneficenza che lavorano insieme per aumentare la consapevolezza dell'occupazione israeliana della Palestina e della povertà che ne deriva e di altre violazioni dei diritti umani. La canzone, pubblicata il 3 luglio del 2011, è un numero di compilation simile a Free Nelson Mandela o Feed the World. Il testo parla di catastrofi, rifugiati, crimini contro l'umanità, campi di prigionia, occupazione, diritti umani e giustizia. Il ricavato della canzone va in beneficenza War on the Want per i progetti in Palestina. E con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento per il 21 settembre, sempre alla stessa ora, alle 17.30, sempre su Radio Wombat. Inshallah! صفقة Stop, go, John, Stop, go, John, Stop, go, John, John, John. Now, Stop, go, John.